Parte ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco di Wheels of Fire, Hollywood Rocks. Come si chiamava questa canzone? Questa canzone era The Reason. Quali saranno ora le mosse della band per il futuro? Ma guarda, stiamo già scrivendo nuovi brani che andranno a far parte del prossimo album. Siamo io e Steve stavolta a comporre, ci troviamo a comporre nel mio studio. Siamo già molto avanti e penso che inizieremo a registrare le batterie verso ottobre-novembre, quindi uscirà, speriamo, per il nuovo anno, con l'anno nuovo. Esatto. Siamo al quinto brano, cosa scegli di te di far ascoltare? Ma una ballata, si chiama Little Prayer. Life can be too short, don't throw it away. Tempo come sempre vola, noi siamo quasi in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il media player. Un grazie agli Wheels of Fire per la partecipazione. A questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco ed un calendario di live già definiti. Allora, il nostro sito internet è www.wheels-off-fire.com e l'email è info@wheels-off-fire.com. Abbiamo anche un Facebook, che è facebook.com/wheels-off-fire. Esatto, anche MySpace, c'è tutti i social network, esatto, siamo su caso, tutti i social. Esatto. Per quel che riguarda live, disco... Ma sì, abbiamo, guarda, una data a luglio... Il 29. Esatto, adesso eravamo concentrati appunto a registrare i nuovi demo. Comunque abbiamo una data il 29 luglio a Samarate, no, a Samacario, che comunque è in zona Busto Arsizio Varese, diciamo. Trovate comunque tutte le informazioni appunto sul sito. Per quel che riguarda il disco, per quel che riguarda, diciamo, la distribuzione o comunque dove possono trovare, insomma, ecco, il vostro CD. Come si dice, in tutti i migliori negozi di dischi e ovviamente su tutti i siti, anche in internet tramite iTunes, eccetera, eccetera, e direttamente anche sul nostro sito. Store ufficiale, esatto, che trovate appunto il link sul nostro sito. Brano per chiudere questa serata? Chiudiamo con You're So Cool, un grandissimo omaggio agli anni 80, ragazzi. Yeah. Jean-Luc e gli Wheels of Fire vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo in studio Tilt da Reggio Emilia che ci presenteranno il loro disco L'Evoluzione delle Ombre. Ciao! Ciao ciao! People tell me you're too hot for me, but they only go so far.